Con Alberto Crespi di Hollywood Party, Bianco e Nero e Narni le vie del cinema, per sapere i suoi 5 film preferiti tra quelli usciti in sala nel 2023 e fare anche un po' un bilancio dell'annata cinematografica. Ben trovato, Alberto. Ben trovato a te e a tutti gli ascoltatori. Diciamo che in questo 2023 il cinema è sembrato tornare un po' in sala, è stato un po' un anno per fortuna di parziale ripartenza dopo i tempi duri che abbiamo vissuto. E in questo senso non si può assolutamente negare che il film dell'anno non è un film, è un fenomeno, è il fenomeno che è stato ribattezzato con un facile slogan Barbieheimer ed è il doppio clamoroso successo in sala quest'estate di due film come Barbie e Oppenheimer di Greta Gerwig il primo e di Christopher Nolan il secondo. È innegabile che il successo trionfale a livello mondiale di questi due film, forse atteso e scontato per Barbie, assai meno scontato e quindi ancora più sorprendente per Oppenheimer, sia l'evento della stagione, l'evento dell'anno, ecco, così come in Italia non si può assolutamente negare, è indiscutibile che l'evento dell'anno sia stato il successo, magari atteso, ma non in queste proporzioni, del film di Paola Cortellesi, C'è ancora domani. Intanto due film su tre diretti da donne, con storie diversissime ma molto indirizzate a un pubblico femminile, ma non solo, naturalmente, altrimenti successi del genere non si spiegano. E quindi un 2023 direi tutto sommato positivo, continua il fenomeno dell'importanza delle piattaforme nella nostra vita, un fenomeno che naturalmente gli anni di lockdown e di pandemia hanno accentuato, un fenomeno che era già iniziato ma che è stato appunto accentuato. Però un accenno di ritorno in sala c'è e va registrato come un fatto positivo. I preferiti sono quasi tutti i film di registi non giovanissimi, ma non sono giovanissimo neanch'io, per cui spero che questa cosa venga accettata dai nostri ascoltatori più giovani che magari avranno preferito film diversi. Guarda caso, quello che penso sia il più bel film dell'anno, almeno per il mio gusto, è un film che nasce per una piattaforma, perché Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese è prodotto da Apple TV ed è un film che era destinato alle piattaforme, ma che è andato anche in sala dopo aver partecipato a Cannes e secondo me è una grandissima prova di questo regista che è fra i più importanti del cinema americano di oggi. Mi sono piaciuti moltissimo anche Il Sol dell'Avvenire di Nanni Moretti. Avendo seguito Nanni Moretti fin dall'inizio, l'ho trovato un film in cui lui tira veramente un po' le fila di tutto il suo cinema in maniera ironica, polemica, politica e poetica, ecco, per fare un po' un gioco di parole. Un altro film meraviglioso secondo me è Foglie al vento di Aki Kaurismäki, che conferma anche quello il talento di un regista che potrebbe sembrare sempre un po' uguale a se stesso, ma che secondo me proprio per questo è un autore tra i più bravi, tra i più geniali che ci sono in circolazione. Mi è piaciuto moltissimo Colpo di fortuna di Woody Allen, altro regista non giovanissimo ma che secondo me con questo film ritorna ai suoi livelli di un tempo. E poi vorrei segnalare un piccolo film italiano, un film politicamente importante ma anche molto ben fatto, molto ben recitato, ben scritto, ben costruito, che è Palazzina Laff di Michele Riondino. È un'opera prima di un attore già popolare e racconta una storia importante dell'Italia di un po' di anni fa, uno dei primi clamorosi esempi di mobbing all'interno di un'azienda come l'Ilva di Taranto, e penso sia un film che merita di essere segnalato tra i migliori in questa fine d'anno. Alla fine ho messo Woody Allen e non un altro, ma non importa, va bene così. Questi 5 vanno bene. Alberto, ci sentiremo nel corso dell'anno. Un abbraccio e auguri. Auguri a te e a tutti coloro che ci ascoltano. Andate al cinema, però anche se vedete un bel film in casa va bene uguale.